Italians. Italien. Italianas. Italienische. Italianisch. Italvi. Italiago. Con la valigia. Buongiorno! Buon pomeriggio! Buonanotte! Siamo ritornate con una nuova puntata di Italiane con la valigia. Questa settimana attraverseremo i continenti, andremo per i sette mari, ma ne parleremo dopo. Cara Laura, dicevamo... Come l'avete detto? Allora, dobbiamo parlare con i nostri ascoltatori e spiegare l'antefatto. Laura è un'esperta del Sudafrica e oggi, guarda caso, andremo proprio in Sudafrica perché abbiamo una super italiana con la valigia che ci racconterà la sua storia. Incredibile, lei si chiama Valentina, tra poco sarà nostra ospite. Non vedo l'ora. Però prima di immergerci in questo clima dobbiamo parlare con Laura che sa tutto. Sentite il suo cuore come batte, si sente tutto. Dai, che sono emozionata. C'è un pezzo di cuore. Io quando ho conosciuto Laura la prima cosa che mi ha detto è stata: no, perché io voglio andare a vivere in Sudafrica. Sì. Per ora non mi sembra. E ora mi hanno trattenuto qua. Ora mi hanno trattenuto qua, però ce l'ho sempre. Parliamo del Sudafrica, tu che conosci bene questa realtà complessa. O che dici di conoscere, perché a volte... Sì, dai. Adesso dici che millanta questo livello, no? Mi chiudo in casa. Oggi parleremo con Cape Town, quindi con una città importante, però i suoceri di Laura abitano in mezzo... Nel Karoo. Che sarebbe? Che è un altopiano nel mezzo del Sudafrica. Del cammin di nostra vita. Del cammin di nostra vita. Ricordo la prima volta che sono andata, mi fecero dormire in una camera separata dal mio non ancora marito. E beh, giusto. Non era ancora marito, scusa. Dormire in mezzo a niente, mi ci sono voluti 3 Lexotan, arachnofobica, mi sembrava di essere in Via col Vento, sentivi gli insetti che volevano entrare quindi non potevi accendere la luce. È il posto per te. Arrivano i ragni della pioggia, entrano solo quando piove. Cosa succede in Sudafrica quando arriva Laura? Piove. Questo è stato il mio welcome into the country e poi invece ho scoperto che è un paese meraviglioso. Un paese meraviglioso che ci vuoi portare a visitare. Cosa dobbiamo vedere a Cape Town? Tutto. Si respira energia allo stato puro, si respira voglia di fare. Devo solo raccontare un piccolo aneddoto. E beh, non c'è l'aneddoto di Laura sappiamo benissimo che non è la nostra trasmissione. Ma se mi mancava, diciamo, come mai non esce? Mi sono sposata in Sudafrica nel 2010, anno dei mondiali. Sono stata testimone di una degli eventi più importanti nella storia del Sudafrica, che è stato il Final Draw. E ho avuto l'onore di poter assistere a un discorso del presidente Nelson Mandela che parlava al pubblico che per la prima volta si incontrava in mezzo a una strada a festeggiare bianchi, neri e colored, e poi ne tutti parleremo insieme, sì, nella Nazione Arcobaleno. E io venire i brividi. Ho visto, io vi giuro, quello è stato il momento di più grande ispirazione che abbia mai avuto. Ho visto la reazione di tutto questo paese. Il risultato di quest'uomo era nella gente che festeggiava insieme e gridava Nelson tutti insieme. È stato veramente il momento più bello. E questo è il Sudafrica. E tu c'eri. E io c'ero. Io come spettatrice, però ho avuto il grandissimo onore di essere toccata anche io da questo uomo straordinario. Che bello questo racconto. Sì, bellissimo. Ma emozionata veramente. Io penso che metteremo in sottofondo la canzone di Invictus. Socialosa, na na na na na. Vabbè, qui siamo passati da Edith Piaf all'inno sudafricano. Questa ragazza padroneggia ogni registro. Scusate. It's Africa, baby. È così. Adesso andiamo a parlare con la nostra amica Valentina e vediamo cosa ci racconta lei dell'Africa. E siamo con Valentina. Buongiorno. Ciao, Valentina. Buongiorno. Buongiorno, bentrovata Italiane con la valigia. Parliamo un po' di questa scelta del Sudafrica, ma prima di parlare del Sudafrica parliamo un po' di te. Chi sei, da dove vieni e perché hai scelto di vivere così lontano dall'Italia? Allora, io sono Valentina, ho 28 anni. Sono di Fossalta di Portogruaro, vicino a Venezia, nelle campagne. Ho fatto l'istituto alberghiero, ho viaggiato i mari per 7 anni. Ah! Quindi hai lavorato sulle navi da crociera. Ho fatto praticamente 3 anni a Londra, dai 18 ai 21. Stufa di Londra, perché Londra è bellissima, stupenda, però purtroppo il tempo atmosferico non è proprio al massimo. E allora abbiamo detto, dai, via, proviamo a vedere questa cosa delle navi da crociera. primo curriculum che ho mandato mi hanno preso. E da lì hai cominciato questa carriera nei sette mari. Raccontaci un po' di questo periodo. Avevo 21 anni appena compiuti, ho cominciato come cameriera. Sì. E dopo 4 anni sono diventata restaurant manager. Ok, è stato difficile? Sicuramente impegnativo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, tu devi essere sempre allerta. Si lavora tantissimo, però favoloso, un'opportunità che non tutti hanno. Senti, ma sento odore d'amore perché so che tuo marito, il tuo compagno non è italiano, quindi sento che uno di questi viaggi ti ha portato a conoscere qualcuno. Esatto, nel 2010 ho conosciuto Andre, che è di Cape Town. Nelle navi da crociera ci sono moltissimi sudafricani. Sì, la nostra Laura lo sa bene, vero? Anche mio marito ufficiale. Ah, sì. Vedi? Abbiamo fatto 4 anni in nave e nel frattempo abbiamo comprato casa qua a Città del Capo. Nel 2014 eravamo in Aspetta, scusa, ti devo un attimo interrompere. Casetta d'Urbanville, vi voglio dire che è in mezzo ai vigneti, fa sempre parte di Cape Town, però diciamo 20 minuti, 25 minuti di macchina, traffico permettendo, virgolette, ma è un paradiso, 10 minuti da qua c'è solo campagna. Non ti sei discostata tanto un po' dalle tue origini? Abbiamo deciso così di venire a abitare qua perché in Italia comprare una casa è impossibile. Senti, tuo compagno lavora a terra adesso? Ha subappaltato. Sì. L'azienda edile di suo papà. Ok. Quindi si occupa di edilizia, fa tetti, fa pavimenti. Ok. Fa piccole costruzioni. Interessante. Oh, sento un amico di Riccardo in sottofondo. Un'amica. Sì. Oh, mi fa piacere. Non sono la sola. Ha lasciato il suo Riccardo la nonna, appunto un bambino che ha 9 mesi adesso. Alla nonna in vacanza per 3 giorni. Vacanza di 3 giorni si è presa l'influenza. Evviva chi vive da solo da un'altra parte del mondo. Noi abbiamo avuto i nonni qua per 15 giorni a Natale. Com'è andata? Benissimo, sono divertiti tanto. Cosa vuoi, un po' staniti perché sai, gli italiani fuori certe volte si sconvolgono un attimino. Era la prima volta che i tuoi genitori venivano in Sudafrica? Sì, la prima volta che uscivano dall'Italia proprio. Oh, la Madonna. Perfetto, quindi cioè, non è che siamo usciti e andati in Svizzera, no, come fanno tutti. No, loro dove vanno? In Sudafrica. Una botta di vita. Io voglio capire com'è questo tuo passaggio da una vita avventurosa sulle navi a una vita comunque più casalinga con una bambina. Comincio col dire che io sono una persona molto nomade, nel senso che cioè, a me mi lasci a casa, mi vengono tutti i mali dal mondo. O per forza viaggiare. La vita qua è molto, come easy, si dice, easy, diciamo. Si può dire flip flop. Sì, dicevi flip flop, Laura. No, volevo dire infradito. No, ma ci sta. L'infradito è una roba abbastanza elegante in Sudafrica. Ah, sì? In realtà si cammina scalzi. Sì, con l'infradito si va anche ai battesimi, eh. Sì, no, sì, ragazze, ma veramente io ho portato la bambina al pediatra, anche la pediatra va al pareo e... Diciamo che in Sudafrica non si può proprio generalizzare perché siamo di tanti tipi, di tanti colori e di tante culture, secondo me. È molto complesso come discorso perché mi diceva Laura nelle sue memorie sudafricane che ci sono tantissime lingue, tante quante sono appunto le tribù, i gruppi etnici che fanno parte del Sudafrica. Esatto, Sudafrica come ci dicevi 50, tu. Più di 50 lingue, incredibile. In Sudafrica, tra le quali non so se forse 11 lingue ufficiali ci sono nel paese. Mi sembra 7. Sì, una roba. Sì, comunque sono una decina di lingue ufficiali, quindi immaginatevi. E tu come fai a gestirti, visto che non conosci l'afrikaans? Hai imparato qualche parola di sopravvivenza o... Gesti. Ho imparato abbastanza, nel senso che dopo 5 anni insieme è abbastanza capibile. Stai parlando italiano? Stai cercando di sviluppare questo bilinguismo, trilinguismo, oppure hai deciso di rinunciare? No, assolutamente no. Allora ti spiego. A casa mia qui si parla italiano, nel senso che io, Andre, parlo italiano, lui mi risponde in inglese e italiano, e Emma, io parlo solo italiano. Purtroppo non posso portare Emma in una scuola afrikaans, torna a casa con i compiti, come faccio? Questo è un po' il problema comune delle persone, delle italiane che vivono all'estero, anche perché comunque abbiamo voglia che i nostri figli crescano con la nostra cultura. Sentirsi genitori nel vero senso della parola, come posso aiutare mia figlia se non capisco? Ma lotterei molto per questo afrikaans. cioè la parlano in pochissimi in realtà, la parlano qui, però se tu vai a Città del Capo Centro non la parla nessuno. No, vabbè, il discorso è ampio. Quindi parli italiano e ti mangi delle belle spaghettate. Sì, infatti, come fai a trovare i prodotti tipici? Diciamo che trovi qualche prodotto italiano, comunque io faccio la pasta in casa. Brava, così si fa. Io non la faccio, ma no, no, l'hai fatta anche tu. Io la mangio, era molto però, buona, tra l'altro. No, scusa, c'è un momento di Alzheimer di là. Quando mai l'ho fatta? Tu me l'hai fatta una volta la pasta in casa, Laura? Ah, devo essere stata ubriaca. Sì, è probabilmente per quello. No, comunque dicevi, fai il ragù, fai tutto in casa. È difficile alla fine dover creare tutto da zero. Purtroppo non è comodo, diciamo la verità. Lei adesso che lei è un movimento continuo, cioè devo fare le cose un po' a rate. Però le fai, nel senso che poi non è che c'è un'ampia scelta di prodotti, sinceramente. Anche... Ma io ho visto su Facebook l'altro giorno che tu hai fatto la ricotta. Sì, ho fatto la ricotta, buonissima. Ah, questa ce la devi raccontare. Come si fa? Ma è semplicissimo, in realtà. No, praticamente metti 2 litri di latte, 500 ml di buttermilk, che praticamente è un latte un po' acido. Porti ebollizione, quando il latte bolle lo tiri via dal gas e si forma la ricotta. Ti vedi in Sudafrica nei prossimi 10 anni? Sarai ancora lì? Sinceramente ho un po' di problemi con il visto. Perché? È una storia molto lunga. Sostanzialmente è successo che io sono arrivata qua in Sudafrica che aspettavo Emma. Come avevo un po' di problemi col diabete quando aspettavo lei e non avevo il medical aid, dovevo ritornare in Italia, perché qua in sanità pubblica è un grosso problema. La visa era pending, cioè non era ancora arrivata, non era stampata, era in corso. Stato, era in corso. E se tu hai un visto in corso, uscendo dal Sudafrica, vieni praticamente bannato per 5 anni. Pazzesco. Nessuno lo sapeva, quindi io a 7 mesi di gravidanza arrivo in aeroporto e dico che sto andando in Italia e questo mi chiama e mi dice: guarda, mi dispiace dirtelo, però le leggi sono cambiate e tu verrai praticamente ban per 5 anni dal Sudafrica. Tu come hai reagito? Diciamo che non è stato molto facile, anche perché l'alternativa era dare la luce alla bambina in un ospedale pubblico in Sudafrica. Sì, però io ormai avevo passato la frontiera, quindi non potevo più tornare indietro. Quindi loro mi hanno detto: ciao, grazie, hai 10 giorni di tempo per to appeal your case, fare opposizione. Cioè, esatto, fare opposizione, e se ti va bene bene, se no mi dispiace. Quindi non ti dico 20 ore di aereo piangendo, perché ovviamente ho tutto qua, ho la casa, ho tutto. Cioè, sono dovuta andare via da lì, dal Sudafrica, malincuore, perché non sapevo se Andre poteva venire. Per loro non è così semplice rimanere qui, ragazzi, perché cioè, comunque noi stiamo parlando di una realtà veramente dura che poi affrontiamo noi all'estero, noi che abbiamo i mariti misti. Per la questione dei documenti, comunque non è facile, anche all'interno dell'Unione Europea ogni paese rilascia la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno. Ormai sono una specialista. Esatto, dipende da che paese ti trovi, con chi, e a volte anche non basta essere sposati, avere dei figli, avere la certezza di una vita comune, perché i controlli possono avvenire qualsiasi momento. No, è allucinante. Allucinante, non è semplice. Infatti noi non possiamo sposarci perché non ho il visto. Ah, ecco. E quindi? Però, cavoli, se non me lo danno, come cavolo faccio a sposarmi? Cioè, tutto un giro. Insomma, io adesso non posso lasciare Sudafrica finché non arriva questo benedetto quindi visto. Quindi sei lì da aspettando il visto da quanto tempo esattamente? Un anno. Sei esiliata. Esattamente, esiliata. Io da qua non posso muovermi finché non arriva il visto. Non puoi muoverti. Mi spiego. Praticamente io sono tornata in Italia. Sì. Ho avuto Emma. Sì. E ancora non sapendo se potevo ritornare in Sudafrica, perché l'ambasciata sudafricana a Milano mi ha risposto che non aiuta italiani, aiuta solo sudafricani, e quindi per il mio problema loro manco, cioè, non gli interessa. Però la bambina è sudafricana. Doppia nazionalità. Sì, doppia. Mi hanno tirato via questo ban. Sì. E sono riuscita a ritornare, però è stata dura perché siamo dovuti andare tramite avvocato, giudici vari, e alla fine ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. In ogni caso, adesso non posso più uscire finché non arriva. Però dai, speriamo che ti facciamo tutti gli auguri del mondo. Assolutamente. Certo, sei esiliata in un bellissimo paese, dobbiamo sì, dire. Però non avere la libertà di uscire è pazzesco, credo. E quindi tu non puoi neanche, per dire, fare una gita in un paese confinante, perché rischieresti grosso. No, non posso neanche più guidare perché mi è scaduta la patente, quindi non posso neanche rinnovarla tramite il consolato, perché ovviamente non ho nessun tipo di diritto per ora. Non sei clandestina. cabina, ma sei congelata. Esatto, sono ibernata. Al caldo però, dai. Sì. Per ora. No, vabbè, dai. E dai, se la cava con le temperature. Senti, dici un po', oggi cosa c'è? Un cielo blu di quel... Oggi c'è un cielo blu che più non si può. Un leggero venticello questa mattina, tanto sole come sempre, ha piovuto mezza giornata negli ultimi 4 mesi praticamente. Un bacio a Sudafrica. Senti Valentina, io ti auguro veramente di riuscire a scongelarti da questa situazione, soprattutto di poter approfittare appieno della tua nuova vita sudafricana, sì, insieme alla tua famiglia. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Facciamo un saluto in Afrikaans, vai Laura. Tot ziens. Cosa vuol dire? Arrivederci. Pensateci bene, scusa, perché fare tutto questo? Perché ritrovarsi in questa situazione? Non puoi guidare, non hai permesso di soggiorno, hai una bambina piccola, non puoi tornare in Italia se vuoi da nessuna parte, per amore. Però io volevo appunto spezzare una lancia a favore delle nostre connazionali italiane che vivono all'estero, che sono sposati con persone extraeuropee, quindi vivono in queste situazioni. Esatto. Coraggio ragazze, soprattutto a me. No, infatti mi sembrava strano, personalmente altruistico, mi sembra molto strano. Ecco, sosteniamo Laura, dobbiamo sostenere Laura. Esatto, e le pratiche di immigrazione, perché siamo sempre lì. Sempre tra un consolato e l'altro. Laura, permesso di soggiorno.com. www.laura.com. Problem solving. Il passaporto, siamo sempre lì ragazze. E vabbè, insomma, siamo sempre lì, ma non più, perché adesso dobbiamo lasciarvi. Sì, è ora di darvi appuntamento la prossima settimana, sempre con Italiane con la Valigia, una nuova puntata. Venite a fare un giro su Facebook, a visitare la nostra pagina Italiane con la Valigia, e siamo anche su Twitter, altrimenti c'è il nostro sito www.italianecolavaligia.com. Care ragazze, appuntamento la prossima settimana. Baci, e ciao. Come sempre, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.